Il terzo anello, ad alta voce, I viceré, di Federico De Roberto. Quasi non potesse perdonargli di non essere venuto a tempo, quando ella l'aspettava e lo voleva, la principessa non aveva fatto festa al primogenito dei maschi, il quale aveva anche messo in pericolo, nascendo, la vita di lei. Invece di volergli tanto più bene quanto più lo aveva desiderato e quanto più le costava, donna Teresa gliene aveva voluto tanto meno. Alla nascita di Lodovico era rimasta ancora indifferente e crucciata. Le sue viscere materne s'erano improvvisamente commosse per Raimondo. Se Raimondo esprimeva un'opinione, subito era secondato o perlomeno non deriso. Giacomo non poté disporre di nulla. Uno dei suoi più lunghi desideri era stato quello di far atto di padrone in casa, riadattando a modo suo il palazzo. La madre non gli permise di rimuovere una seggiola. I due fratelli, quantunque avessero la stessa aria di famiglia, non si rassomigliavano neppure fisicamente. Raimondo era più che bello, Giacomo quasi brutto. Nella galleria dei ritratti si potevano riscontrare i due tipi. Tra i progenitori più lontani c'era quella mescolanza di forza e di grazia che formava la bellezza del Contino. A poco, col passare dei secoli, i lineamenti cominciavano ad alterarsi. I volti si allungavano, i nasi sporgevano, il colorito diveniva più oscuro. Un'estrema pinguedine, come quella di Don Blasco, o un'estrema magrezza, come quella di Don Eugenio, deturpava i personaggi. Fra le donne l'alterazione era più manifesta. Chiara e Lucrezia, quantunque fresche e giovani entrambe, non avevano grazia, quasi non parevano donne. Così l'astio di Giacomo contro la madre e il fratello si manteneva sempre vivo. Esso crebbe a dismisura quando donna Teresa colmò lo staio, dando moglie a Raimondo. La tradizione di famiglia, mantenuta fino al 1812 dall'istituzione del fedecommesso, vietava che nessuno, fuorché il primogenito, prendesse moglie. E infatti nella generazione precedente né il duca né don Eugenio s'erano accasati. Ma la principessa, come sempre, si infischiò delle regole e pensò di trovare un partito a Raimondo prima ancora che a Giacomo. Morendo lei e lasciando a entrambi la sua fortuna, la condizione dei due fratelli sarebbe stata uguale, ma in vita, non volendo ella spogliarsi di nulla, Giacomo, che doveva necessariamente ammogliarsi per tramandare il principato, si sarebbe arricchito con la dote della moglie, mentre Raimondo, restando scapolo, non avrebbe avuto nulla. Tuttavia, apparendo troppo a lei stessa che Raimondo prendesse moglie prima di Giacomo, il quale a 25 anni era ancora scapolo, caso unico nella storia della famiglia, provvide ad ammogliare i due fratelli nello stesso tempo e destinò al primogenito la figlia del marchese Grazzeri. Se il matrimonio del principe andò tanto male, quello di Raimondo andò molto peggio. Giacomo non voleva la Grazzeri, amando la cugina. Raimondo invece non voleva nessuna, era deciso di non ammogliarsi. Quindi, benché trattati in modo tanto diverso, entrambi i fratelli aspettavano con eguale impazienza la morte della madre. Giacomo, per esercitare la propria autorità di capo della casa, per vendicarsi dei maltrattamenti sofferti, per afferrare la roba. Raimondo, per saldare i debiti nascostamente contratti, per buttar via i quattrini nella soddisfazione dei propri capricci, per appagare il più grande desiderio che lo struggeva. Andar via dalla Sicilia, vedere Milano e Torino, vivere a Firenze o a Parigi. Al primo annunzio del matrimonio, egli si ribellò dunque apertamente alla madre, poiché solo fra tutti poteva dirle in faccia: «Non voglio!» Don Blasco, al matrimonio di Giacomo, aveva fatto cose dell'altro mondo e vomitato gli ultimi vituperi sul nipote che s'era ficcato in testa di sposare la cugina Graziella, la figlia d'un'altra Risà, e sulla cognata che gli dava invece per forza una Grazzeri. Ma a coronar l'opera mancava proprio il matrimonio di Raimondo. Ammogliare un altro figliuolo, creare una seconda famiglia, venir meno alle tradizioni della casa. C'era esempio di una pazzia più furiosa. La principessa aveva dunque sostenuto per accasar Raimondo una lotta ora sorda, ora violenta, non solo col primogenito e con Don Blasco, ma con lo stesso figlio di cui voleva assicurare l'avvenire, e persino con se stessa. Ella ebbe in quell'occasione un altro nemico, e non meno terribile, Donna Ferdinanda. La zitellona contava allora 38 anni, ma ne dimostrava 50. Né in età più fresca aveva mai posseduto le grazie del suo sesso. Destinata a restar nubile per non portar via nulla del patrimonio riservato al fratello principe, ella sarebbe stata forse rinchiusa, per maggior precauzione, in un monastero, se la sua bruttezza e più la naturale, sincera avversione allo stato maritale non avessero assicurato i suoi parenti meglio della clausura contro i pericoli della tentazione. Non era parsa mai donna, né di corpo né d'anima. Costei aveva avuto dal padre una miseria, il cosiddetto piatto, cioè tanto da assicurare il vitto quotidiano, la magra provvisione, durante il fidecommesso dei cadetti e delle donne. Con quella miseria, Donna Ferdinanda si era proposta ad arrivare alla ricchezza. Nel 42, 10 anni dopo essere entrata in possesso del suo magro piatto, stupì tutta la parentela acquistando all'asta pubblica per 5.000 onze il fondo del Carrubo, bel pezzo di terra che ne valeva 10. Fortunata, cioè accorta anche in questo, nell'aver saputo cogliere la magnifica occasione. Nel 49, quando meno se l'aspettava, le si presentò l'occasione di comprare la casa. Oltre quella dei quattrini, la zitellona aveva infatti la passione della vanità nobiliare. Tutti gli Uzeda erano gloriosi della magnifica origine della loro schiatta. Donna Ferdinanda ne era ammalata. Ella salvò una copia del famoso Mugnos, teatro genealogico di Sicilia, dove il capitolo della famiglia de Uzeda era il più lungo, occupando non meno di 30 pagine. E quelle pagine secche e ingiallite, esalanti il tanfo delle vecchie carte, stampate con caratteri sgraziati ed oscuri, con ortografia fantastica, quella enfatica e bolsa prosa siculo spagnola secentista, era la sua lettura prediletta, l'unico pascolo della sua immaginazione. Il suo romanzo, il Vangelo che le serviva a riconoscere gli eletti tra la turba, i veri nobili tra la plebe degli ignobili e la gramigna dei nobili falsi. Ora, con questo infatuamento della zitellona per la propria eccelsa origine e per l'istituzione della nobiltà in generale, la principessa pensò di dar per moglie a Raimondo chi? Una Palmi di Milazzo, la figliuola d'un barone da 10 scudi, del quale il Mugnos non faceva e non poteva fare la più lontana menzione. Gloriavasi questo barone Palmi di certi privilegi di 150 anni addietro. Ma che erano 150 anni paragonati ai secoli di nobiltà degli Uzeda? Thank you. Solamente gli altri due cognati, il duca Gaspare e il cavaliere don Eugenio, non avevano dato tanti fastidi a donna Teresa. Il cavaliere don Eugenio, al tempo di quelle lotte, non era in Sicilia. Destinato sulle prime ad entrare anche lui ai Benedettini come il fratello don Blasco, s'era salvato adducendo la propria inclinazione al mestiere delle armi. Dopo 10 anni era appena sottobrigadiere. Infatuato come tutti gli Uzeda della sua nobiltà, aveva guardato d'alto in basso i compagni ed anche un poco i superiori, vantando, oltre che sublimi natali, sterminate ricchezze. Frattanto, abbruciato di quattrini, egli aveva chiesto un impiego a corte. E nonostante i precedenti poco promettenti, pure per ragioni politiche, premendo ai Borboni di tenersi amiche le grandi famiglie siciliane, egli fu nominato gentiluomo di camera, con esercizio. Nel 1852, inaspettato ospite, tornò a casa. Giacomo era ammogliato da 2 anni ed aveva già l'aspettato primogenito, e Raimondo stava a Firenze con la moglie, dove era loro nata una bambina. Fino al 48 il duca, come tutti gli Uzeda, era stato borbonico per la pelle. Ma quantunque come secondogenito e duca d'Orago avesse avuto qualcosa di più del magro piatto ed alcuni zii materni avessero contribuito a impinguare il suo appannaggio, pure egli aveva un'invidia del primogenito e una smania d'arricchire e di farsi valere nel mondo più grande di quella dei fratelli, giacché la sua dotazione svegliava ma non appagava i suoi appetiti. Per questo sentimento che aveva fatto di don Blasco un energumeno e alimentato la cupidigia di don Eugenio, il duca aveva dato ascolto alle lusinghe dei rivoluzionari, ai quali premeva di trarre dalla loro un personaggio importante come il duca d'Oragua, secondo genito del principe di Francalanza. Al primo scoppio della rivoluzione, la paura fu più forte. Dichiarando ai suoi nuovi amici che il moto era impreparato, inopportuno, destinato immancabilmente a fallire, mentre la gente s'armava e si batteva, egli se la batté in campagna e fece sapere ai capi del partito regio che s'aspettava la fine di quella carnevalata. Corto di vista e presuntuoso per giunta, proprio mentre le cose stavano per volgere al peggio, egli giudicò di potersi ormai gettare in braccio ai liberali. Stava già per abbruciare i suoi vascelli e già assaporava i primi frutti del favor popolare, quando un bel giorno il principe di Satriano sbarcò a Messina con 12.000 uomini per rimettere le cose al posto di prima. Il duca si stimò perduto e la nuova, più grande tremarella gli fe commettere uno sproposito di cui più tardi ebbe a pentirsi. Mentre la città s'apparecchiava alla resistenza, egli firmò con altri borbonici fedeli e liberali traditori una carta in cui si invocava la pronta restaurazione del potere legittimo. Amico di Satriano, protetto dalla firma posta a quell'atto di sottomissione che tra i liberali andrò infamato col nome di Libro Nero, protetto ancor di più dal proprio nome, perché era impossibile che un Zeda avesse potuto dire sul serio mettendosi coi rivoluzionari, il duca non solo non soffrì molestie di sorta nella reazione, ma fu anzi accarezzato. Invece, un sordo fermento si destò contro di lui nel partito dei vinti. Un giorno l'amico don Lorenzo gli consigliò di partire. Solo la lontananza e il tempo potevano avere virtù di far sbollire quell'odio. Infine venne il matrimonio di Raimondo con la Palmi ad assicurargli nuove grazie. Egli aveva conosciuto il barone a Palermo, per mezzo degli agitatori che questi veniva a trovare da Milazzo, in barba alle autorità e col pretesto degli affari. Quando il duca seppe del matrimonio divisato dalla principessa, s'affrettò quindi non solamente ad approvarlo, ma anche ad offrirsi come mediatore, facendo valere l'amicizia che lo legava al barone. Egli sentiva che quell'alleanza del proprio nipote con la figlia dell'antico liberale non poteva se non favorirlo, aiutarlo a riacquistar credito presso la parte che aveva tradita. Tornato in patria adesso per la morte della cognata, egli era accolto quasi in trionfo. La gente traeva a lui in processione. Thank you. Giacomo dava punti alla madre quanto a diffidenza e a vigilanza. Teneva tutte le provviste sotto chiave, voleva conto delle cose più miserabili, degli avanzi, delle croste di pane. Ma insomma, la spesa giornaliera, non contando l'aumento per gli ospiti, era considerevole e il trattamento più lauto. Mangiavano adesso 4 piatti, mentre ai tempi della madre se ne facevano 3 per lei e per Don Raimondo. Erano tutti pel conte in cucina, come nelle anticamere e come nelle scuderie, perché il padrone giovane non rassomigliava al maggiore, tanto era dolce di comando e largo di mano. Signore davvero, di modi e di pensieri, non come l'amico. L'amico è volpe vecchia, com'era l'amica. «Che dite?» domandò il principino. «Niente, eccellenza», rispose il cuoco, e volto ai dipendenti. «Lavorate», ingiunse, «senza tante ciarle». Il principino comprese che lo mandavano via. A 6 anni era curioso più di Don Blasco. I maneggi dello zio monaco, il continuo complottare che si faceva in quella casa, avevano destato di buon'ora la sua attenzione. Dopo la morte della nonna, s'accorgeva dal contegno dei parenti, dai discorsi dei servi, che l'avevano con suo padre, chi per una ragione e chi per un'altra, ma che nessuno ardiva prendersela direttamente con lui. Egli comprendeva tante altre cose: che la zia Ferdinanda non poteva soffrire la zia Matilde, che tra questa e suo marito c'erano dissapori. Comprendeva e taceva, fingendo di non accorgersi di nulla, per non incorrere nella collera di nessuno. Donna Ferdinanda veramente gli usava molte preferenze, ma nessuno come la principessa scusava i difetti del monello. Rabbrividendo, cadendo in convulsione se qualcuno le si metteva troppo dappresso, ella vinceva la mania dell'isolamento soltanto per amore dei figli, si stringeva al petto e baciava furiosamente il suo consalvo, anche se questi non era troppo netto, e con tanto maggior impeto quanto più si difendeva da ogni altro contatto. Da un pezzo, nata la sorellina Teresa, le carezze non erano tutte per lui. Non di meno solo la principessa riusciva ad ottenere qualche cosa da Consalvo con le buone, per amore. Raimondo non era ancora rientrato quando tutta la famiglia, con l'assistenza di Don Mariano, prese posto a tavola. Lucrezia aveva gli occhi ancora rossi, teneva il capo chino e non diceva una parola. Ma il principe, fattosi improvvisamente sereno in vista, rivolgeva cortesie allo zio Duca. Tutti i giorni così, dopo lunghe ore di mutria, di silenzio, di voltate di spalle al sopravvenire dei fratelli e delle sorelle e più della cognata Matilde, egli smetteva la tavola ceraccigliata per corteggiare lo zio. Non era la prima volta che il desinare cominciava senza Raimondo, e al malumore di Lucrezia faceva riscontro quel giorno un pensiero molesto sulla fronte della contessa Matilde. Forse era questa la sua grande colpa, l'amore che portava a Raimondo. Lo amava fin da quando lo aveva visto, da prima ancora, fin da quando, fidanzata per lettera a quel conte di Lumera, del quale suo padre, superbo d'imparentarsi coi viceré, le faceva lodi senza fine, ella aveva lavorato con la fantasia a rappresentarselo bello, nobile, generoso, cavalleresco come un eroe del Tasso o dell'Ariosto. La madre di Raimondo, per idolatria del figlio, era gelosa di lei. Riuscita ad ammogliarlo, ad assicurargli la dote, aveva umiliato la nuora, facendole sentire fin dal primo giorno la sua mano di ferro, perché più d'ogni altro ella stesse sommessa dinanzi al beniamino. Ma la sommissione idolatra e il cieco affetto della sposa, togliendole ogni pretesto di incrudelire su lei e mettendo nuova esca al fuoco della sorda gelosia materna, l'aveva resa implacabile. Il fratello maggiore, non perdonando a Raimondo i suoi privilegi, non potendo rassegnarsi alla concorrenza che la famiglia di lui faceva alla propria, rovesciava il suo rancore sulla cognata. Tutti gli altri erano stati senza pietà per l'intrusa, o in odio alla principessa che l'aveva voluta in quella casa, o in odio a Raimondo che la madre proteggeva. Così ella s'era vista bersaglio di quei parenti ai quali era venuta con animo confidente e cuore affezionato. Thank you.